Sezione quindicesima di Odi Barbare di Giosuè Carducci. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitare il sito LibriVox.org. Dai Carmina di Ludovico Ariosto. Varea vecchia, con questi carezzevoli sussurri tuoi, va ingorda vecchia al diavolo! Assai la vostra fede o assai m'è cognita, se ben tardi, ma tal non son che illudere alla lunga mi lasci alle re femmine impunemente. O come increscemi delle fallace dove mi ritennero pur tanto tempo. Ed io credeva, misero, l'amore concedesse a me solunico quei dolci frutti ch'io poi con grandissima vergogna mia compresi che si davano a questo e a quello e a quello ed a qualsiasi vuol comprar con dannoso prezzo i fetidi accoppiamenti di coteste adultere. Or vedi tu come sfacciata pregami, quasi che tutto il suo nefando vivere io non sapessi. Indietro, sporca femmina, ruffiana, venditrice di libidini, degli amor miei, prostitutrice lurida. Oh, come l'ira lugne mi sollecita contro quella facciaccia, o come l'impeto in quei bianchi cernecchi la man spingemi, impunita or ne andrà questa benefica? No, che uno sfogo almen mi va concedere, e pria le scaverò quegli occhi torbidi. Poi mieterò quella lingua pettegola, quella che m'ha perduto e fatto misero, e ruinato ed a nulla ridottomi. E voi mi ritenete, o amici perfidi, lasciatemi per Dio largo al giustissimo furor, paghi costei le pene debite. Ah, voi la favorite di commettere, non sapete un peccato inespiabile, aiutando quell'empia, io stesso, io vidila, sovente all'ombra di notte oscurissima, di sotterrar le benedette ceneri ed evocar con diro carme l'anime pallide. Dai silenzi interminabili, e lei che gitta ai fanciullini il fascino. Or su le paghi tutte, voi partitevi. Ma se pur nulla i miei preghi vi muovono, vada la scellerata a tutti i diavoli, non sempre avrà voi soccorrenti e prossimi. Fine della sezione quindicesima, registrata da Liber il 30 settembre 2020.